Il punto di Stefano Folli. Nel passo di Napolitano la difesa di una magistratura indipendente è totale come sempre, ma è molto più accorata di altre volte la pressione morale, si può chiamarla così, a favore di Berlusconi, a cui non può e non deve essere impedito dai magistrati con procedure giudiziarie, quindi extra politiche, di partecipare al confronto democratico, alla vita pubblica in un momento cruciale. Qui la presa di posizione del Quirinale è esplicita come mai in passato, susciterà polemiche forse, ma è un rischio calcolato da parte di un presidente che in forme anche imprevedibili ha deciso di giocare tutte le sue carte per evitare la destabilizzazione delle istituzioni. Occorre tenere il centrodestra sulla strada delle istituzioni, impedire l'assurdità di un boicottaggio del Parlamento, aprire la via a un governo per il Paese. Ecco dunque l'ipotesi di un cosiddetto governo del Presidente, l'unica forse possibile in questo momento. Napolitano ha fatto sapere che ci sta provando senza riserve.